Ciò che vorrei, tu mi dirai, è una realtà più semplice che ciò che considero giusto, in realtà solo quello che vorrei. Ma l'utile attacca, coraggio ti manca e la stabilità è una certezza che credi di avere ma che nel tempo ucciderà. È una maschera dentro di te, lo vedi, sei tu che vai contro di te. Lo specchio mostra tutto quello che sei, due plastiche riproduzioni nel nulla. Se non hai una tua identità, paura di credere a un'entità, non senti nulla in questa stronza età. Non dirmi che non ti rifletti per nulla. Ciò che vorrei, tu mi dirai, è una realtà più semplice che ciò che considero giusto, in realtà solo quello che vorrei. Ma l'utile attacca, coraggio ti manca e la stabilità è una certezza che credi di avere ma che nel tempo ucciderà. È una maschera dentro di te, lo vedi, sei tu che vai contro di te. Lo specchio mostra